il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio di questa settimana parliamo di Polesine, ne dedichiamo infatti questa puntata in particolar modo al Delta del Po, un'area forse da valorizzare che anche i veneti dovrebbero conoscere meglio per le sue ricchezze sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista enogastronomico, anzi diciamo gastronomico più che eno. Abbiamo oggi ospite Fabio Biolcati, presidente del consorzio di imprese Delta Pool Service, un consorzio di imprese di vario genere che stanno lavorando per la promozione in particolar modo del Delta e che ha sede ad Ariano nel Polesine. Benvenuto Presidente. Buongiorno a tutti. Ecco, intanto le chiediamo di presentarci un po' in questo consorzio, come è nato e che cosa in particolar modo promuovete, di cosa vi occupate. È un consorzio che è nato con una formula forse un po' atipica, nel senso che è un consorzio di imprese che si occupano dei servizi all'interno del settore turistico ricettivo, ma che non sono di un unico tema, ma si occupano, oltre che del soggiorno, dell'albergazione e del ristoro, si occupano anche dei servizi connessi. Praticamente è stata realizzata una rete di imprese con una finalità sostanziale, che era quella di rendere più efficiente e più efficace il collegamento fra le diverse imprese, che a volte rischiavano anche di non conoscersi, magari pur insistendo sullo stesso territorio. Per cui è stata una scelta imprenditoriale collegata alla massimizzazione dell'efficienza all'interno di un territorio che è molto complesso, molto articolato e vario, e che non aveva questa esperienza imprenditoriale già esistente. Quindi l'abbiamo inventata un po' dal nulla, prendendo a spunto però anche di iniziative di altre regioni, penso all'Emilia Romagna, dove questo fenomeno, questa tipologia di servizi e di imprese è abbastanza frequente. Certo, oggi è necessario assolutamente mettersi assieme e mi pare che ci stia riuscendo nella zona del Delta, perché essendo c'è stato anche di recente ho visto che c'è un'integrazione di una serie di servizi turistici, ambientali e anche appunto dal punto di vista gastronomico. Ecco, quali sono queste, raccontiamo un po' le ricchezze un po' di questo territorio. Ma allora, intanto è un territorio che purtroppo è abbastanza sconosciuto, ma questo forse è anche un vantaggio, perché significa che c'è ancora molto da spendere in termini di promozione e quindi tutto fa sperare in una crescita per il futuro piuttosto che di un assestamento, noi ne siamo convinti. È un territorio molto giovane sotto il profilo geologico, perché nasce dalla conformazione del Delta del Po, che nei secoli, nei millenni ha costruito questo territorio, però è un territorio anche sotto il profilo archeologico molto interessante, perché ci sono insediamenti che risalgono agli Etruschi, famosa è Adria come cittadina etrusco-romana, con il suo museo, degli insediamenti romani successivi che sono particolarmente interessanti perché raccolgono delle testimonianze di cittadine anche molto organizzate, che sono ancora direi molto mantenute sotto terra, per cui si preservano bene per il futuro. Ci sono degli interessanti scavi, mi viene in mente San Basilio nel comune di Ariano Polesine, dove anche recentemente sono state fatte delle scoperte interessanti, e quindi tutto lascia presagire che ci sia molto materiale da ritrovare. Però il Polesine è conosciuto soprattutto dal punto di vista ambientale per tutta la zona, il Delta del Po in particolar modo. Infatti questo aspetto archeologico si coniuga perfettamente con l'aspetto ambientale, perché il Delta del Po è la caratteristica fondamentale di questo territorio, e quindi aspetti di natura ambientale sotto il profilo della vegetazione e anche della fauna, e profili abbastanza inediti, nel senso che l'aspetto ambientale nostro è molto originario nella sua nella sua conformazione, e questo è riconosciuto da tutti i turisti che vengono nelle nostre parti. Come dire, il luogo comune che si sente ripetere molto spesso è che la Camargue rispetto al nostro territorio ha ben poco da spendere in confronto. Ecco, avete anche un piccolo gioiellino che è il giardino litoraneo di Rosolina, che è veramente interessante e unico nel suo genere. È un biotopo che dà proprio la fotografia di come doveva essere, soprattutto nei millenni precedenti, quando non c'era ancora la presenza umana così radicata, ed è sicuramente interessante perché ha una biodiversità veramente notevole e si riallaccia proprio alla conformazione principale, che sono le dune sabbiose, che rappresentano in questo territorio un aspetto originario difficilmente rintracciabile da altre parti. Ci sono tre cordoni dunosi che sono identificati nella cartografia e anche nella realtà. Purtroppo molti sono stati come dire intaccati dalla presenza umana, quindi dalla coltivazione e quant'altro, però ci sono ancora, come dire, dei significativi siti, che tra questi quello di Rosolina è sicuramente quello che interessa. Certo, vi invitiamo tutti quanti a visitarlo. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto, tra poco. Il quadrifoglio: consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. No science or religion could make this whole. But never love, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved. So this is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly high. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, I'm nowhere safe. When tears aren't big enough, and love turns into hate. It's a life alone and a death. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly high. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. Eccoci tornati in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando del Delta del Po con Fabio Biolcati, del presidente del consorzio imprese Delta Pool Service. Abbiamo parlato delle aspetti ambientali, parliamo anche adesso un po' di quello produttivo, di prodotti tipici. E la prima cosa che viene in mente è la sacca di scardovari e un po' i prodotti del mare. Sì, esattamente. Le vongole autoctone sono fra le più pregiate a livello nazionale ma anche internazionale, infatti le imprese che si occupano di questa coltivazione esportano la maggior parte del loro prodotto, quindi questo è significativo anche in termini di qualità, e chiaramente il pesce che si coniuga ad una raccolta e ad una pesca locale anche molto pregiata, pensi ai branzini e alle orate di mare, quelli che sono pescati subito dopo la foce dei rami del Po, e anche gli allevamenti che sono abbastanza diffusi all'interno nelle parti delle valli che sono gestite con tecnologie anche molto avanzate. E, però non dimentichiamo anche altre tipologie di prodotti molto importanti. Il riso, che recentemente ha ricevuto anche l'indicazione geografica protetta, e altre coltivazioni particolari, mi viene in mente il melone di Porto Tolle, che proprio per un fatto di microclima e di presenza di salinità nel terreno è riconosciuto fra uno dei migliori in assoluto a livello nazionale. Gli ortaggi di rosolina, che sono anche questi collegati direttamente al terreno sabbioso, quindi al mare, e poi mi viene in mente anche una piccola cosa che riguarda magari una nicchia, ma che è il miele che si produce nel Parco del Delta, che inizia a essere anche abbastanza apprezzato a livello regionale, perché ci sono diversi mielicoltori che si stanno organizzando e che stanno trovando anche successo, quindi c'è una varietà notevole di... Ecco, mi verrebbe da dire che un po' la ripresa anche dal punto di vista produttiva e turistica del Polesine passa anche però per una valorizzazione e anche tutela ambientale di un territorio che forse in passato, un territorio molto fragile che in passato forse non è stato così tutelato. Cosa si sta facendo un po' su questo? Beh, guardi, allora la cura del territorio è sicuramente collegata al processo della gestione dei flussi dei fiumi. Tutti sanno che il Polesine, ahinoi, è noto soprattutto per l'alluvione del 51, ma da allora bisogna, anche questa è una cosa da sfatare, bisogna confessare e ammettere che sono stati fatti lavori talmente consistenti e così grosso spessore che la sicurezza idraulica nel nostro territorio è assolutamente garantita, forse lo testimonia il fatto che sono decenni che non avevo più problemi di alluvione, ecco, quindi... A differenza di altre parti del Veneto, purtroppo. Non volevo dirlo io, l'ha detto. Comunque, sicuramente, ecco, questo è un risultato di grande spessore in termini anche di intervento, per cui il magistrato per il Po e tutti gli enti che si occupano della bonifica, che controllano costantemente l'andamento dell'influsso dell'acqua sia per quanto riguarda i fiumi che per quanto riguarda gli aspetti pluviometrici, sicuramente hanno ridato a noi una importante sicurezza per la permanenza sul territorio dell'uomo e di tutte le sue strutture. Chiaramente il fenomeno che si può ancora ricordare e che comunque mette tutti quanti in guardia sul fatto che non si può abbassare questa guardia è il fenomeno della subsidenza, perché il nostro territorio ha conosciuto negli anni 50-60 un prelievo di gas metano che si è abbinato immediatamente all'abbassamento del suolo. Il processo di perforazione e di estrazione del metano è stato interrotto e quindi adesso il sistema è bloccato nel suo fenomeno, però è un fenomeno che comunque è da tenere monitorato. Ecco, io la devo salutare perché siamo un po' arrivati verso la fine della trasmissione. Volevo dare un po' qualche indirizzo per visitare il Polesine, soprattutto in questa stagione primaverile. Io ho il vostro sito internet che è www.deltapoolservice.it. www.polesi.it. Vi sono altre indicazioni, suggerimenti che possiamo dare ai nostri ascoltatori? Senz'altro, perché questo è il sito istituzionale del nostro consorzio, invece io invito soprattutto i turisti a visitare il portale che è www.venetodeltapo.it, all'interno del quale c'è un booking online, anche molto moderno, quindi all'altezza delle richieste che ci sono degli appassionati del web. All'interno di questo portale ci sono le varie sezioni che si possono visitare, dove ci sono tutte le notizie per le visitazioni, per gli appuntamenti importanti, e poi c'è anche un mercato, un piccolo negozio online all'interno del quale si trovano questi prodotti che prima citavo e che si possono comprare direttamente attraverso il web marketing. Quindi è una soluzione che ha messo insieme tutte le varie esigenze, che ci sembra anche essere riuscita. Bene, la ringrazio. Chiudiamo la trasmissione con alcune notizie e rimaniamo in Polesine per dirvi che dal 24 al 27 aprile si tiene in varie località, in particolar modo ad Ariano Polesine, l'Ocarina Festival, mentre fino al 24 aprile al Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, sempre a Rosolina, esclusi sabato santo, Pasqua e lunedì di Pasquetta, dalle ore 9 alle 12 è possibile visitare 280 varietà di petunia e 52 di geranio. A Bosco Nordio, uno scrigno verde situato nel comune di Chioggia, è possibile invece effettuare delle visite didattiche organizzate dalla cooperativa ILA domenica 4 maggio. È in programma una mattinata di sport e attività fisica, il 18 maggio meditazione guidata e un contatto sensoriale con la natura, il 14 giugno si svolgerà una serata all'insegna dei pipistrelli. Informazioni sul sito internet della cooperativa www.ilacop.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.